Oh, madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa... Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io con il signor Parenzo non sono d'accordo neanche quando sceglie la cravatta per uscire di casa, neanche quello sono d'accordo. Ma in questa stagione il signor Parenzo è in grande forma, in grande forma! Cruciani, guardi film porno e pensi alla trama come i vecchi. Sei un vecchio, Cruciani. Voglio Cruciani come sindaco del mio paese e Parenzo come Netturbino. Cronache dall'Italia, attenzione, fermi tutti, cronache dall'Italia. Cronache dall'Italia, certamente. Cronache dall'Italia, chiude... In un negozio, la notizia viene da Rimini, chiude nel suo negozio un ladro di biciclette denunciato per sequestro di persona. Ripeto, chiude nel suo negozio il ladro di biciclette denunciato per sequestro di persona. A proposito di Froci, Parenzo, devo farti una confessione. Devo dirti una cosa. Finalmente, lo aspettavano in tanti. No, lo sappiamo, ti stiamo vicini. Ho parlato già anche con la tua mamma. Sono malato. No, però. Ma non sarei malato. Ho parlato già se... con la tua mamma. Ma parleremo anche con i tuoi figli. E non ti preoccupare. No, veramente ne ho una di figlia al massimo. Ma non anche più questo figli. È da vedere. Ma comunque siamo tutti con te. Ecco, ti vogliamo bene lo stesso, anche se così hai. Come dire, vabbè, se anche se ti piacciono gli uomini, insomma. Quindi bene, dai, bene. Sei riuscito ma non a è questo, fuori, la confessione non è questa. Ah. Sto parlando con molti omosessuali che lavorano. Sì, ma devi fare presto, però presto mi annoio. Presto, omosessuali, presto, fate presto. No, molti omosessuali che lavorano nel mondo dello spettacolo, nel mondo delle trasmissioni. No? Cosa dicono? Ne conosciamo tantissimi. No, ma ce n'è uno in particolare, un mio amico, che mi ha scritto dei messaggi. Gli ho chiesto, scusa, perché non hai il coraggio di dire che sei contro il matrimonio, cioè contro le unioni civili, che le consideri una puttanata pazzesca, e contro le adozioni? Sai cosa mi ha risposto? No, adesso vado a ripescare i messaggi. Aspetta, eccolo qui. Non me ne frega niente dei matrimoni né degli orrendi bambini. Non posso fare il nome. Ma perché non posso fare il nome di questa persona? Sono Frocia perché voglio essere libera. Ma se lo dico mi ammazzano. Sono libera e troia. Adesso lasciamo perdere libera e troia comunque. E lui è contro i matrimoni e contro le adozioni. Ma scusa, io ho detto, perché non lo dici? Cioè, perché non dici, a me non me ne frega niente di queste discussioni, io sono libero, eccetera, eccetera, non me ne frega nulla. Perché se no mi ammazza. Perché la realtà, io sono a favore di tutto, però se tu hai un'idea contraria, non vorrei che si stesse creando una sorta di, capito, di dittatura Gaia da questo punto di vista. Cioè, se non dici di essere d'accordo con la Cirinà, sei immediatamente... considerato un reietto, uno da emarginare. Figuriamoci se lo dice un omosessuale. Figuriamoci se lo dice. Io ricordo che il povero Cristiano Malgioglio, per aver detto due paroline, anche piuttosto moderate, miti, qui alla Zanzara tempo fa. La zia Malgioglio. La Malgioglio è stata massacrata, distrutta dal suo mondo. Dal suo mondo, dal mondo degli omosessuali di professione. Ma dico. No, ma non è così. Cioè, no, questo è così. Lo trovo fastidioso. Però in questo momento c'è soltanto un obiettivo, e lo dico veramente da giornalista indipendente. Cirinna! Ma perché? Cirinna! Cioè, oggi l'obiettivo, detto ma che con l'obiettivo? Ma non è, è quello vero di approvare una legge che manca. Cioè, ma ti pare normale, per esempio? Ti pare normale, per e esempio? Quindi ogni intervento è mina, no, ma ti pare... mina già una stabilità, no, ma... che non c'è. Ma, no, ma ti pare normale, per esempio, che Adinolfi, che ovviamente io contesto l'idea di Adinolfi, all'università di Bari. No, lo so, viene lo so. Contestato. Sì, c'è la polizia di tutto. Ma una roba da pazzi, io trovo. Perché qualcuno. Vabbè, ma una contestazione non ha mai fatto male a nessuno. No, dai, ho capito. Dai. No, ma la gente che dice che non ha diritto a parlare perché ha detto che la donna deve essere sottomessa, cosa che peraltro non ha mai detto. Ha detto che il ruolo della donna è quello tradizionale, eccetera, eccetera. Cioè, io contesto tutte le idee di Adinolfi, ma ha diritto di parlare, diritto di cittadinanza come tutti. E chi va lì a contestarlo dicendo che non ci deve essere, che non deve parlare, perché non è una semplice contestazione alle idee, è un coglione, è un... chiaro? Dimmi te se devo difendere Adinolfi contro gli intolleranti. Io non sopporto tutto quello che dice Adinolfi. Dai, un fischio non l'ho mai, non ma non mai è un fischio, questi nessuno, dicono che non deve parlare, dai, vabbè, su. Deve parlare, no, deve parlare. E cioè, allora, deve parlare, per fortuna che c'è Adinolfi, un'idea diversa dal conformismo, almeno, imperante che un po' c'è il conformismo gay. Beh, adesso per diciamo, fortuna c'è un che po' c'è il conformismo gay, dai. In queste ore, in questi giorni, Allora, vi faccio sentire Berlusconi, però torniamo a ridere un po', sennò ci incazziamo subito. Sono le 18:40, siamo subito incazzati, non va bene, Parenzo, mi sono subito inalberato. Berlusconi mi fa venire, mi fa quasi tenerezza, lo sai, Berlusca. Mi fa tenerezza quando Berlusca dice: le canzoni scritte da me, da Piscella, non le passano in nessuna radio. Bisogna colmare questo vulnus. Ha detto questo, che le sue canzoni non le passano in nessuna radio. No, male. Forse siamo solo noi che le abbiamo passate in realtà. Abbiamo questo primato di aver passato la trasmissione stasera e mandiamo solo le canzoni di Berlusconi. Chiudi la Claire, chiudiamola qua. Ma pensa quanto più bello sarebbe, la gente se l'aspetta. Non rompere i coglioni. Chiudiamo qua e mandiamo le canzoni di Berlusconi. E a Piscella. Poi, sì, di Berlusconi, ogni tanto poi la gente chiama, senti, qualche stronzo come senti, al solito. Berlusca, dai. 130 canzoni che io ho scritto con Mariano Apicella, però siccome sono canzoni scritte da Berlusconi non c'è una radio che le accetti, sono meravigliose. Ma te credo, te credo, non scrivo più canzoni perché non c'è più la democrazia. Come? Sì, non c'è più la democrazia. Ha continuato a scriverle? No, adesso da quando non siamo più una democrazia mi è passata la voglia. Dai, presidente, come dai? Suona, non siamo più una grosse, democrazia. Dai, questa è una festa, sì. Ma noi siamo un popolo di pecoroni. Dovremmo essere nelle strade a chiedere lo scioglimento delle Camere e nuove elezioni, e invece siamo qui a festeggiare i 20 anni. Io sabato festeggerò i 30 anni di mia presidenza del Milan, perché l'abbiamo presa così. Allora, Salvini, che ha toni quando si parla di giustizia alla Berlusconi, lo abbiamo provato anche noi lunedì scorso, caro Parenzo, dice che Renzi vuole instaurare un regime alla Stalin. Alla Stalin, perché dice che occupa tutto, no? La televisione, poi parleremo anche della televisione. L'abbiamo snobbata la notizia delle nomine Rai, perché non ce ne fotte nulla, e alla gente che è in collegamento non sì, fotte non assolutamente penso niente. Che però una cosina chiedersi la voglio dire, Salvini. Io penso che Renzi stia pensando di instaurare un regime che mi ricorda quello di Stalin, perché abbiamo un Parlamento comprato, abbiamo un governo inginocchiato, abbiamo buona parte della magistratura schierata e da ieri anche la televisione pubblica militarmente occupata. Quindi la storia insegna che quando controlli l'informazione, l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario c'è il regime. E quindi a me l'aria e la puzza di Unione Sovietica e di Stalin non piace. Bah. Allora ragazzi, parliamo dell'informazione, che è una cosa importante. Giudiziario non lo so, perché non credo. È una follia. In altri casi avresti detto che è una follia. No, è una lo follia. Dicevi è una follia. Quando la sinistra no, ma è una all'epoca follia di Berlusconi è una follia parlava di non democrazia. Sì, lo dico, netto. È una follia. Sì, netto, una follia. Caro, una caro, follia. Ma no, come ma si chiama, te lo dico, una follia. Crumani. Sì, netto. Sei anni. No, che no, ma lo dico, Cruciani. Sì, netto, Crumani. Cioè, devi dirlo nettamente. Ha detto una stronzata. Dillo con una stronzata. Dillo, ma una stronzata. Ma anche, oh. No, basta, l'ho detto, una stronzata. No, che devo ma dire? Dillo ancora, perché una puttanata. Salvini, oh, una puttanata. Bello, oh. Una puttanata. perché si tiene ultimamente, non dice mai parolacce, si tiene. Me l'hanno detto, ho incontrato tanta gente, dice, ma perché Cruciani si tiene così? Perché si tiene? A proposito di Salvini, cioè, ragazzi, è stupenda questa qua, è meravigliosa, questa qua è stupenda. Cioè, se stanno a scannare su Roma, amico mio, io avevo previsto tutto, questa cosa di Bertolaso, dei Rom, eccetera. Il signor Salvini, forse ascoltando la Zanzara, non lo so, si è convinto che la candidatura di Bertolaso, che dice che ha votato, non ha mai votato Berlusconi, che ha sempre, che è un vecchio democristiano, non vuole sgomberare i campi Rom e dice che i Rom sono vessati, amico mio, sembra più vicino a Vendola piuttosto che al signor Salvini. Sì. Si è accorto che qualcosa non va, che la gente forse non lo vota, la sua gente o quelli di destra, Bertolaso a Roma non lo vota. Persino Marchini ha fiutato l'aria e dice via i Rom e gli accattoni. Marchini, vecchio uomo di sinistra, Marchini lo dice per prendere voti, perché non crede a una parola di quello che dice Marchini quando dice via i Rom e via gli accattoni, però ha capito che per prendere voti bisogna dire quella roba lì e la dice. E giustamente Salvini rimette tutto in gioco. Ma tu hai capito il casino? Cioè, sì, Salvini, sì, capito, prima accetta Bertolaso, perché lo accetta, perché non è che quei due, Berlusconi e la Meloni, sono totalmente rincoglioniti, no? Dice di sì a Bertolaso, poi sente Bertolaso, cioè non sapeva che Bertolaso, una roba incredibile. No, diciamo che la cosa folle è che siccome la Meloni, ma questo non interessa a nessuno, non vuole storacce, perché è il candidato naturale. No, però adesso lasciamo perdere, ma la questione è molto semplice, è questa: su Bertolaso sentiamo i romani, cioè vuole rimettere in gioco tutto, le primarie, sì, sì. Su Bertolaso ascolteremo i cittadini romani, perché il parere che mi interessa è loro. Quindi la partita è aperta? Tutte le partite sono sempre aperte. Ma dai, insomma, come è aperta? Ma lunedì scorso qui da noi, Matteo, hai detto che Bertolaso ormai è il candidato, basta, non se ne parla più. Adesso per questa frase sui Rom. Probabilmente per questa frase sui Rom, incredibile. Allora ragazzi, incazzatevi un po', tornate a incazzarvi, eh. Vinciullo, lo sapete chi è Vinciullo? Parlamentare regionale in Sicilia, assessore di Crocetta. 11.000 euro, secondo me sono 14, al mese alla regione, dice che non arriva alla fine del mese. Molte spese perché ci sono i matrimoni. Come tutti i deputati che abbiamo e veniamo eletti dal popolo, abbiamo anche un'attività di rappresentanza che è dovuta dal fatto che noi, rispetto forse a lei e tanta altra gente come lei, siamo voluti bene dalle persone. Ah, sì. E di conseguenza, se la gente ti invita al suo matrimonio e succede in maniera continua, io ho il dovere di presentarmi con un regalo. E questo evidentemente è un fatto che incrementa in maniera notevole le spese di un deputato. Io questa non la sentivo dai tempi di un deputato del PDL che venne da noi a dire che c'erano un sacco di spese perché andava a fare non so quanti matrimoni all'anno. Se io questo l'avessi saputo prima, l'avrei invitato alla mia festa di compleanno, ad esempio, pur non conoscendolo, perché sono sicuro che mi fa il regalo questo qua. Cioè, le spese per andare ai matrimoni. Dammi il numero, lo chiamo, gli dico se vuoi venire alla mia festa di compleanno, mi porta il regalo. No, il matrimonio, invitiamolo a un matrimonio. Stupendo, invitiamolo a un matrimonio. Invitiamo un matrimonio per finta. Ormai l'abbiamo detto. Pronto! Amica, ascolta. Come no? Si può proporre il reato di voyeurismo stradale per quegli stronzi che guardano l'incidente nell'altro senso di marcia e creano la fila? Grazie. Traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta La Zanzara. Allora andiamo a Milano da Patrizia, vai Patrizia, vai. Buonasera. Dimmi. Buonasera. Io volevo dire qualcosa circa le unioni civili e questa faccenda dell'adozione dei bambini. Dai, dimmi, veloce, vai. Veloce. Allora, ho seguito tutto, io ovviamente sono favorevole alle unioni civili, anche alle adozioni, però poi alla fine mi sono fatta una domanda. D'accordo, questi possono adottare un bambino... ma hanno bisogno di un utero e quindi di una donna. E mi sono domandata, ma queste donne che si metteranno, perché potrà diventare anche un bel mercato delle vacche, scusi il termine, che si metteranno a disposizione, non riesco a capire, una donna che chi è madre può capire le mie parole. Tu vendi tuo figlio al miglior offerente. E poi un'altra Patrizia, cosa, sei che... contraria all'utero in affitto? Ci ha messo tutta questa prolusione di un minuto per dire che sei contraria all'utero in affitto. Mi stupisce che ci siano donne disposte a fare questo. Lo fanno per denaro, cara Patrizia. Io non credo alle storie di chi racconta la generosità. Poi ci sarà sicuramente un caso su migliaia di donne che dice che vuole essere messa incinta perché è generosa nei confronti di chi non può avere figli. Però la cosa fondamentale è una sola: lo fanno per denaro. E io ripeto, da cinico forse o da materialista, non so cosa, quale sono, che secondo me è un do ut des, come ce ne sono tanti altri. Nessuno forza queste persone a farlo. Se lo fanno secondo le regole, secondo me deve essere consentito. Dopodiché poi ci sono tanti traffici che sono legalizzati, tanto comunque ci sarebbe lo stesso, illegale. Giuseppe dalla provincia di Modena. Buonasera. Dimmi. Ma cosa fa? Non lo so cosa fa Giuseppe. Dimmi, cosa stai facendo, Giuseppe? No, ero in bagno. Ma sei al cesso? Sì. Ma che vai a fare al cesso? Cioè, chiami e vai al cesso? No, in realtà è un'ora che sono in attesa, allora... Però scusa, puoi metterti per favore senza viva voce anche se sei al cesso? Sì, un attimo. Cioè tu hai fatto tutto quello che non bisogna fare, cioè andare al cesso, che non puoi anche farlo, viva voce, tutto quello che non bisogna fare. Ma ho capito, ma toglilo quando sei in diretta poi, no? Dai, sì, Giuseppe, no, dimmi. Niente. No, volevo dire due cose. Allora, una è quella... Ti vuoi togliere per favore il microfono, l'auricolare? L'ho tolto. Vabbè, Massimo dalla provincia di Salerno, dai, mi sono scocciato. Massimo. Pronto? Dimmi. Senti, volevo chiedere una cosa, ma è possibile con tutti i problemi d'Italia dobbiamo pensare all'Unione dei Froci qua? Io non mi riesco a spiegare, qua stiamo morendo di fame, stiamo morendo di fame, proprio ci uccidiamo. Beh, adesso non esagerare, dai, la gente uccide, dai, non dire stupidaggini, fra poco ci uccidiamo. Mi sono mantenuto basso, Luciani, esci e vieni qua giù, soprattutto, vieni a vedere che sta succedendo. Ma io non nego che ci siano... Scusami te ne Roma, io ho le possibilità, male non sto economicamente, ma io vedo la fame. Fra poco ci uccidiamo uno con l'altro. Ma non dire stupidaggini, fra poco ci uccidiamo, dai. Ma dove vivi? Io sto contestando quello che tu dici, cioè non che non ci siano problemi, il fatto che fra poco ci uccidiamo gli uni con gli altri, non dire puttanate, dai Massimo, su. Non, senti, forse... vieni qua, oggi, qua giù, fra extracomunitari, persone che non arrivano più a fine. Ma che c'entra questo? Cosa c'entra adesso? Perché i problemi sono altri. Ma tu stai dicendo un'altra... Vabbè, stai dicendo che non sono si deve... altri, l'unione civile, ci vogliono 10 minuti per fare un'unione civile. Poi le adozioni se ne parla. Sì, ma il mondo si ferma per questo, eh? Cioè le imprese vanno avanti, l'Italia va avanti adesso perché in Parlamento si discute per 20 giorni dei Froci. Il problema è chi discute di queste robe. Ma ne possiamo parlare anche per un anno, ma non è il momento. Non è il momento, oggi non è mai il momento. Ti prego, in Italia siamo rovinati. Io a volte mi dico, ma dove andiamo? Dove ci presentiamo? Abbiamo il coraggio di contestare la Merkel, di contestare la Francia, o di contestare la Svizzera, o di contestare quella signora stamattina. Comunque, devo dire la verità, Parenzo. L'idea di questo ascoltatore, al di là della frase che ha detto di Massimo, cioè che si discute troppo di questa cosa qui e ci siamo fatti anche due palle così, è abbastanza condivisa. Cioè, il 90% delle persone che mi chiama, che scrive messaggi, che scrive WhatsApp, dice esattamente questo: basta discutere in Parlamento di questa cosa, ci si occupi di altro. Non è una cosa. È una stupidaggine. Perché sarà una stupidaggine, ma è una cosa. È una stupidaggine colossale, ma proprio micidiale, perché se il Parlamento non si occupa di questo, cioè anche di della nostra vita, che poi la vita vera è questo, oltre a le pensioni, il lavoro, anche questo fa parte della nostra vita. Massimo sta dicendo che dici una puttanata. Ciao, non è il momento. Ciao. Allora ragazzi, chiudiamo questa prima parte con il mitologico col mitologico Vinciullo. Abbiamo detto guadagna intorno ai 14.000 secondo me lordi al mese alla regione Sicilia, regione che sarebbe da cancellare domani mattina e mettere un commissario per 30 anni, per 40 anni che comanda cancellando tutto, privilegi forestali eccetera eccetera. Signor Vinciullo dice che ha molte spese perché va anche a molti matrimoni. E poi dice: se lei non ha un matrimonio al mese è asociale. Questa è molto bella, eh. Se tu non vai. Tu vai a un matrimonio al mese, David? No, ma che matrimonio al mese, ma ti pare? Io credo l'ultimo matrimonio non sarebbe sostenibile economicamente. L'ultimo matrimonio, non me lo ricordo. Se lui no, ma, te non no, ma ti senti questa roba genere. è stupenda. No, mi invitano, sì, mi sì, per servire ai tavoli. No, che servire ai tavoli? Mi invitano per farmi fidanzare con qualche amica della sposa, di solito. Ah. Per farmi una storia con un'amica o di una con sposa. La sposa addirittura. No, la sposa quasi mai, non è la successo. Classe. No, non è successo mai. L'amica di una sposa sì, cioè di solito rimorchia moltissimo i matrimoni. Vabbè, ma quello tutti, non dico una cazzata, cioè non dico una cosa originale. Senti, Vinciullo, perché mi fai parlare di altro, dei matrimoni dove vado e non ci vado peraltro? Vinciullo dice che se non hai un matrimonio al mese è asociale. Poi uno dice: chi cazzo è sto Vinciullo? È un signore siciliano che noi paghiamo profumatamente oltre 10.000 euro al mese per dire che non arriva alla fine del mese con i soldi che gli diamo. Lei non ha un matrimonio a mese? No, no. Lei è un'essere asociale. Cioè, nel senso che. Non ho tante persone che voglio sapere come lei. Lei è un essere. Sono di meno le persone. Beh, lei quindi è un essere asociale che nessuno vuole fare. Non ascoltare la zanzara è peccato. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy. L'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. La Zanzara. Allora ragazzi, vogliamo dirlo chiaramente che c'è ormai in atto, Parenzo, un tiro a chi non è d'accordo con la legge Cirinnà, una specie di tiro al piccione. Adesso dimmi tu se tiro una... al piccione no, comunque no. Prego insomma. No, no, se una frase del genere, quella che ti sto leggendo, l'avesse poi stata cancellata repentinamente, a me la gente che cancella i propri messaggi, quello che scrive su Facebook, su Twitter, francamente lo trovo una cosa ridicola, cioè la cancellazione di quello che viene scritto perché si ha paura di quello che è stato scritto. No, comunque, paura, vecchio mio, magari uno si accorge di aver detto una stupidaggine e quindi tanto resta, ormai t'hanno pizzicato. Elimina le prove, diciamo. Comunque. Allora, se l'avesse pronunciata uno, diciamo, un leghista, uno di destra, lo avrebbero massacrato. Sentiamo una la di Nolfi, frase. Dato che si parla dei gay. Si sta parlando di Costantino della Gherardesca. Ah, come no, certo, il sui grillini, come Costantino no. Ho letto tutto, amico mio, hai tutto. Letto, Durighe, hai letto, che ci vuole a leggere? Un titolo, avrei letto un titolo. Ho letto la Vabbè, polemica, comunque, lascia perdere. La polemica esplosiva. Signor Costantino della Gherardesca, conduttore sì. televisivo e radiofonico, molto legato alla RAI, con contratti Rai, se non sbaglio. Signor Vabbè, questo non c'entra niente. No, c'entra. Come no, c'entra? No, questo c'entra, c'entra nulla. Dopo ti dico perché. Ha scritto su Facebook: sono disposto sì. a ingrassare un chilo per ogni parlamentare grillino morto. Per sì, ogni sì. parlamentare grillino morto. Siccome se la prende con i 5 Stelle, che non c'entrano assolutamente nulla, per il seminaufragio, poi magari non sarà beh, naufragio. No, c'entrano tecnicamente, ma è poco interessante. Ma non c'entrano niente. Hanno voluto con l'abolizione del canguro, ma c'entrano. Ma che vuol dire? Ma la legge è lì. Se hanno il coraggio di approvarla, l'approvassero anche senza i grillini, che sono l'opposizione, peraltro. Ma che cazzo vogliono? Sì, allora, no, ma diciamo, i grillini con un escamotage furbesco hanno affossato il canguro. Ma comunque ma chi non se importa, ne frega, vai avanti. Ma non è quello il punto. La legge è ancora lì. Se la vogliono approvare, la votano domani mattina e la approvano se hanno i voti. Se non ce l'hanno i voti, se la pigliano in quel posto. Scusa, ma è normale la democrazia? Comunque, lasciamo perdere. Siccome i 5 Stelle sono accusati di fare il doppio gioco, di aver approfittato sulla pelle dei gay per cercare di affossare Renzi, il signor Costantino della Gherardesca, gay comprovato, sostiene che è disposto a ingrassare un chilo per ogni parlamentare grillino una morto. Battuta, una battuta. No, una coglionata, una boiata. Una battuta. Cos'è? Una è la verità? È la verità? Vabbè, ho capito. Ma cos'è? È la verità? Imponete ai grillini di mettere una spilla con un quarto sul bavero, non so, quarto che poi non è un politico il signor Costantino della voglio Gherardesca, è un showman. Sì, certo, quindi. Voglio poterli riconoscere per strada e prenderli a calci. Allora, 800 24 0024. Invece WhatsApp 393 71 71 701. Andiamo a Bologna da Massimo. Vai Massimo. Ciao, buonasera a tutti. Senti, volevo ho chiamato a proposito della telefonata che hai ricevuto, del messaggio di quel tuo amico gay che hai riferito all'inizio della trasmissione. Sì. E io non so se esiste veramente, però questa è la prova che anche che non è che se uno è omosessuale sia più intelligente degli altri, perché questo qui ha la testa alla Giovanardi o alla Gandolfini. Chi? Per cui questo tuo amico, questo tuo conoscente, cioè detto come va detto, non ha certo per niente, guarda, ti posso assicurare che non ha assolutamente, non la pensa assolutamente né come Giovanardi né come Gandolfini, tutt'altro. Sì, però è un cialtrone. Perché cioè, è un cialtrone, scusa. È un cialtrone, te lo spiego. Perché se lui vuole continuare, ha detto che non, i bambini li odia, non gli interessa matrimoni, unioni civili, vuol continuare a fare la zoccola, mi sembra che hai detto. Vabbè, ma quella è un'espressione che ha usato in privato, sì, con me, certo. Dai, su. Va bene, però infatti non ha fatto il nome, no? Che cosa? No, no, ma uno fa quello che gli pare, però vuole capire da questa persona che se l'eventuale l'applicazione della legge Cirinà, che cosa gli cambia nei suoi gusti, cioè gli cambia qualcosa, i bambini continuano a odiare. No, ma il problema è quello, è lo stesso ragionamento che fanno i cattolici. Massimo, cioè, dire. Io l'unico motivo per cui ho raccontato questa piccola storia che mi è successa oggi è per dire semplicemente una cosa, che è questa, che purtroppo chi non la pensa come le organizzazioni gay, le associazioni gay, eccetera, eccetera, ed è omosessuale, oggi, guarda che è vero, è così, ha difficoltà e magari lavora nel mondo della comunicazione, nel mondo della moda, nel mondo della, che ne so, nel mondo delle televisioni, delle radio, ha difficoltà a dire come la pensa, semplicemente perché viene considerato da quel momento in poi una specie di reietto. Andatelo a dire, fatevelo raccontare alla signora Cristiana Malgioglia, la quale dopo l'intervista qui alla Zanzara è stata massacrata, ovviamente sto un po' giocando su questa cosa qui, per aver detto che se ne fotte, che non vuole che un bambino cresca tra due omosessuali. È stato massacrato, gli hanno detto traditore, pezzo di merda, ma è così, ma è la realtà, dai, Antonio da Bari, dai, Antonio. Sì, ciao, buonasera a tutti. Dimmi, Antonio, dimmi. No, io sono spaventato invece della situazione della legalità, cioè del limite della legalità. Che vuol dire? Che oggi viviamo. Cioè, non si sa più se io mi difendo, mi sto difendendo perché devo chiedere al ladro prima se sta venendo a rubarmi una mela. Ma che stupidaggine. Oppure se mi sta aggredendo, o sta aggredendo la mia famiglia o i miei beni, e io devo avere l'incertezza di sapere se mi posso difendere o meno. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Ma non è assolutamente così. Ecco. Ma siete veramente dei populisti. Ma che populisti? Perché da quattro ma soldi. Che c'entra il populismo? Perché io state a violentare sua sorella o ma che schifo, ma si vergogni, ma non dica perché puttanate, ma si vergogni. Ma lei si deve vergognare di aver solo pensato che questa cosa. Ma anche il concetto di lei si deve vergognare. Ma fai parlare un attimo, no, non deve parlare più. Che ama. Io devo difendere chi amo. E chi è io che mette in discussione sta roba? Beni. Io devo difendere certo. Mia figlia. Devo essere nel diritto di poter difendermi. E chi è che nella mia abitazione, non per strada. Io parlo della mia abitazione. Non come le persone come lei, signor Parenzo, che non ha nemmeno il coraggio di non ammettere puttanate. Di essere in una posizione sbagliata. Perché nel momento in cui entreranno in casa sua e stupreranno sua moglie o sua figlia ma o sua madre quel paese. O quello che ma le vada succederà quel paese, ma vede quando torna succedere. Ma non dica, ma non dica stupidaggini. Che sarà capace di fare in quel Antonio momento. Da Bari, che ma farà? Pensa a te cosa mi augura. Lo farà accomodare e gli dirà prego faccia pure. Sì, ma non è mai nessuno ha mai detto stupidaggini simili. Antonio è da Bari, telefoni a casa ora mentre sta tornando, va. Sa che cosa trova? Perché deve telefonare a casa adesso? Perché come perché? Perché lo dico io perché? Perché deve telefonare? Fare, mentre lui è qui a sparare stupidaggini alla Zanzara, te ma telefoni a casa, dica, amore, sto tornando vive? A casa, non trovi i ladri, trovi uno dentro l'armadio nascosto, altro ma che ladri. Ma perché stai dicendo questo? Non ho capito. Ma lei è fuori perché di cervello. Così? Perché così? Cioè, lei, secondo me, ha sbattuto la testa da piccolo cadendo dal seggiolone sì. E è diventato sì. Deficiente così. Chiami a casa però, io sarò anche deficiente, ma la telefonata a casa la faccia. Quando vuole, e guardi anche sotto il letto e fuori dal davanti. piazzale che c'è uno appeso fuori. Ma non stava rubando, nessuno, cioè stava rubando la moglie. No, le stava rubando la moglie. Io non ho capito una cosa. Perché devi dire che la moglie di Antonio si scopa un altro? Questo non lo sappiamo. Hai detto questo, faccio una telefonata. Augurato. Lei è vergognoso. Antonio da Bari mi ha augurato di subire furti e stupri. Antonio da Bari, tal Antonio da Bari, il cosiddetto Antonio da Bari. Però non ho capito una cosa. Che cosa stai dicendo? Le peggio cose e io gli sto augurando di io le sto dicendo che se si dovesse verificare, e io anch'io le sto dicendo che se si dovesse verificare il suo ritorno a casa anzitempo, se si dovesse verificare, le do questo suggerimento modesto e gratuito: telefoni quando si trova un chilometro, telefoni per evitare. Perché lei è alquanto bruttino e l'ho visto anche in televisione. Io sono guardi, sua moglie non pensa così, sua moglie non dice così, caro. Guardi, sua moglie non dice questo. Assolutamente ad accusare di una cosa del genere, anche perché io ho certezza di mia moglie e di mia figlia. Lei invece non ha certezza nemmeno di una sua casa, perché non ha niente di cui decidere. Certezza. Lei non ha famiglia, non ha nulla, non capisce che cosa significa un proprio bene o qualsiasi altra cosa. Ma chi ha mai detto una cosa simile? Antonio, ma comunque non bisogna benevolente. Fermo un attimo, Antonio, chiudiamo la telefonata in questo modo, anche un po' ironicamente, dicendo che non si deve però mai essere certi di nessuno in generale. Claudio da Lucca, Claudio. Gliel'ha tirata. Claudio, dimmi. Sì, allora Cruciani, io capisco che te, come quel deficiente, delinquente di Salvini, facciate il vostro mestiere. No, veramente io faccio un mestiere diverso, amico mio, però sì, comunque va bene. Diverso, ma il finale è sempre lo stesso. Sentiamo, il finale è sempre lo stesso, secondo te è sempre lo stesso. Ma, cioè, tu devi tenere nella tua mente, sulla tua televisione. Alla tua radio, non è un delitto procurare ascolti, denaro all'azienda in cui lavori, non so che lavoro fai, probabilmente fai un lavoro parassitario, sei uno statale parassita. Non so che cosa fai. Certo, ascolta, prima ti voglio dire alcune cose, dopo rispondo io alle tue domande. Ma non c'è, tu non rispondi a niente, comando io, forse non hai capito bene come funziona qua. Sei una testa di cazzo come Salvini. No, forse non hai capito bene, qui... Mi piace come si crea subito un clima... Se uno viene in casa, no? Avere le armi. Non ho detto che bisogna, non hai capito una mazza, come al solito, non hai capito. Ma perché non dice che dobbiamo andare in Parlamento? Perché dobbiamo andare lì a sparare? Perché sono tutti lì che ci stanno rubando la vita tutti i giorni. Perché non fai questa politica? Cioè, perché tu vorresti andare a sparare in Parlamento? Non deve votare, ma deve sparare a tutti i parlamentari. Oh, siamo arrivati. Sono lì. Siamo arrivati alla conclusione. La vita tutti i giorni. Chiudiamo tutto. Come allora te la prendi sempre col più debole e sei forte con i deboli con allora forti. Secondo te sei un delinquente. Come Salvini, un delinquente per non c'è tenere dubbio. Il tuo posto alla radio, hai capito, Claudio? Allora bisogna andare a sparare in Parlamento, questo ho capito, giusto? Certo. Perché lì sono i ladri, non sono quelli che ti vengono scusa, a fare in casa. Hai per caso un'arma in casa? La lotta di classe, la lotta di classe un'altra volta. Hai la lotta di classe certo. Per la sopravvivenza, per la vita, mentre in Parlamento ci rubano, sono lì. La lotta di classe, i ladri alla lotta di classe, hai sentito questo che ha detto? Che noi neppure in 50 anni. Amico, ce l'hai un'arma in casa o no? Ce l'hai un'arma? Hai un'arma in casa o no, amico mio? Io no, caro amico. Non procuratela allora, procuratela e vai a sparare in Parlamento se hai le palle. Se ce l'hai nella testa, bisogno dell'arma. Ma te lo ripeto, non c'ho bisogno di nessuna. Bisogna cominciare dal potere. Sì, vai a sparare in Parlamento, vai. Punire i ladri che sono dentro il Parlamento. Vai. Ogni giorno ne arrestano due. No, veramente. Veramente li arrestano nelle regioni. Non hai capito una mazza. Regioni, in Parlamento non arrestano più perché in Parlamento c'è gente come perché non passano i soldi. Di star lì e denunciare quello che fanno. Sì. Non c'è mai uno che va a finire in carcere. Mai uno. Non c'è un parlamentare in 40 anni perché, di non, lì. Perché non ci sono i soldi, se i soldi sono nelle regioni, per questo arrestano la gente nelle regioni. Sono 50 anni che ci stanno rubando soldi, tutti. Vai a sparare, Claudio, vai a sparare. Tanti auguri. Ma quanti vanno a finire in carcere? Tanti auguri, vai a sparare, tanti auguri. E tu stai lì a rompere il cazzo con quelli che vengono in casa, gli devi sparare? Ciao. Lotta di classe. Lotta di classe. Questa è chi va a rubare lotta di classe. Oh, finalmente ho sentito pronunziare all'interno della radio della Confindustria una parola a me molto cara. Lotta di classe. Fermo due lì. Parole. Capanna, però aspetti un attimo. Scusate, io non c'ho un euro. Cosa cazzo me ne frega della borsa? La Zanzara. Sento nella pubblicità la voce della Bossi Federigotti, mi viene voglia di arruolarmi nell'ISIS. Ragazzi, è vero, ma come cazzo si fa? Ma io dico, con tutto il bene che voglio alle persone che fanno questo mestiere, cioè dire la pubblicità, le donazioni, le cose, ma come si fa? Cioè, uno spot del genere è respingente. Cioè, se tu senti uno spot, non hai alcuna voglia di dare manco mezzo... No, manco un centesimo a questi qua, ma diciamola tutta, perché io ricevo mail ogni giorno di gente che dice: ma come cazzo fate? Com'è che dice questo ascoltatore qua? Com'è che ha detto? Quando sento nella pubblicità la voce della Bossi Federigotti, mi viene voglia di arruolarmi nell'ISIS. Questa magari è un'esagerazione, l'ISIS no. No, mi piace più quello che ha chiamato, che ha detto: ma sì, io non ho neanche un euro in tasca, perché devo ascoltare la borsa? Anche quello è forte, però. Comunque c'è gente matta, no, dirlo. Ma che matta, è gente normalissima. Bisogna dirlo. La gente vera. Oh, a proposito, non cioè, se un marziano arrivasse qua improvvisamente, sì, uno che viene dalla Spagna, cioè, vediamo cosa fanno, no? O dall'Inghilterra. Oh, let me see, please, Radio 24, e accende. Sì. E tu dici che questa è gente vera e sente quello che beve la pipì, quell'altro che chiama, che sa venire da Bari, Mauro da Mantova, Donato da Varese, dice: questa è l'Italia, secondo te? Quando tu dici: questa è l'Italia, è anche vera? Questa l'Italia, certo, è anche questa l'Italia, è anche poi questa. Parli della fuga dei cervelli. L'Italia però credo. È anche il paese, amico mio, dove c'è una signora che abbiamo intervistato ieri che si chiama Eva Klotz. Frau Eva Klotz, che è una indipendentista, una passionaria del Tirolo, la quale si è incassata 1 milione di euro di vitalizio. No, 960, è tecnicamente molto bene la battaglia, 960.000 euro tecnicamente, che io appoggio capito, e sostengo. È quasi 1 milione. Appoggio e sostengo tu. Vabbè, no, 900, purtroppo 960, purtroppo. Ma come purtroppo? 960.000 euro. Certamente di diritti dovuti, non c'è ombra di dubbio. Per fare la rivoluzione dovuti. Ci vogliono i soldi. Beh, in questo caso la rivoluzione la vuole fare sul serio, perché non conta il principio, vitalizio 960, non 1 milione di euro, non faccia il demagogo. Allora, la signora Eva Klotz ieri qui alla Zanzara ha detto alcune cose molto interessanti. Ha preso 1 milione d'euro, secondo me, da noi, secondo lei dal Trentino, però sempre Italia. Beh, sempre Italia, per lei no, per noi sì, secondo la Costituzione sì. Dicendo che il suo paese non è l'Italia, l'Italia è uno stato occupante, però molto generoso, devo dire. Occupante ma generoso. Quale considera il suo paese, l'Italia o il Tirolo o l'Austria? Tirolo. Al quale spetta l'autodeterminazione. Ma cos'è per lei l'Italia? Un paese straniero? Cos'è l'Italia? L'Italia per me è lo stato al quale siamo annesso senza la nostra volontà. Cioè uno stato occupante. Uno stato occupante in pratica. Sì. 960.000. Stato occupante, 960.000 euro. 960.000. Questo è forte però, questo stato occupante. Via con l'assegno da 960. Ma porca puttana, ragazzi. No, torniamo alla vicenda Vinciullo, perché è veramente il personaggio più divertente forse degli ultimi mesi, direi. Mesi. Allora, signor Vinciullo, ripeto per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, per chi non sa chi è questo Vinciullo, è molto importante. Tenete presente questo nome, perché ve lo ricorderete, tornerà spesso qui alla Zanzara questo nome. Vincenzo Vinciullo, bello anche, no? È come si dice, tu che sei acculturato, tu che hai letto i libri, un nome, come si dice, un nome armonioso. Vinciullo, omen nomen, no? No, Vincenzo Vinciullo. Ah, dici che è. No, Vincenzo Vinciullo. Sì, no. È cacofonico. Sì. È cacofonico, dai, greco. Cacos. Esatto, bravo. Cacos, che vuol dire distribuisci un po' di perle della tua presunta cultura. Fonè vuol dire suono, quindi cacofonico, esatto, molto bene. Vincenzo Vinciullo, stupendo personaggio che io ho conosciuto molto bene quando ero giovane, poi vi racconterò un'altra volta, ve l'ho già raccontato forse, il quale oltre a dire che non arriva a fine mese perché ci sono molti matrimoni, molte spese eccetera, e chi non ha un matrimonio al mese a sociale, dice anche che ci sono battesimi, cresimi, lauree, cioè il lavoro del politico è andare a, io non lo sentivo veramente da un sacco di tempo, battesimi, cresime, lauree. Ci sono i battesimi, ci sono le cresime, ci sono le lauree, perché grazie a Dio i miei amici si laureano, fanno figli e hanno una vita sociale ben precisa. Ben, alla fine, ecco, del mese, dal momento che le ho fatto vedere che non prendiamo 11.000 euro, noi ne prendiamo 6-3, e le ricordo pure, se forse lei non lo sa, che non prendiamo 13esimo, 14esimo, TFR, che non abbiamo più, che non abbiamo più il vitalizio, non abbiamo più nulla. Cioè, praticamente dei poveracci in Sicilia sono. Cioè, abbiamo scoperto dall'amico Vinciullo che i consiglieri regionali in Sicilia sono dei poveri in canna. Cioè, sono praticamente dei barboni. Non prendono più niente, devono girare la Sicilia tutta la settimana, eccetera, eccetera. Una cosa pazzesca. Però, tra l'altro, viene anche un po' incastrato, signor Vinciullo, perché a un certo punto il giornalista, credo dalla gabbia, gli dice: scusi, Vinciullo, ma lei dice di non prendere rimborsi quando va a Roma. Anche là i consiglieri regionali ogni tanto vanno a Roma. A Roma. Vado due volte a messa, come un fatto noto a tutti, a Roma, e ho un altro caso, perché io faccio il deputato, io difendo il mio territorio. E non prendo rimborsi per questi. Non prendiamo rimborsi. Sai cosa succede però? Guarda, faccio vedere io, questi sono i rimborsi dell'ARS. Perfetto. I suoi rimborsi. Vinciullo, Vincenzo, ad esempio, 8 e 10 febbraio 2015, perché ci sono andato? Perché sono stati spesi 858 euro. Per quale motivo ci sono andato? E 548 euro sono stati rimborsati. Perché ci sono andato? Partecipazione agli stati generali e la portualità. Perfetto. È un tema che comunque glieli rimborsano però. Allora, non ci siamo capiti. Se lei troverà un altro deputato che ha prodotto più di me in Italia e in tutte le province, in tutti i posti del mondo. E poi io la invito a cena, ma questo glielo dico, vedrà, che siccome lei un po' vuole fare con me lo sbuffone. No, allora io la ripago con la stessa moneta. Cioè, prima dice che non prende rimborsi per andare a Roma, poi gli fanno vedere che li prende e dice che lui è super produttivo. Ma sti cazzi, che cazzo c'entra? Cioè, sei super produttivo, va benissimo, perfetto, ci mancherebbe pure. Però i rimborsi per andare a Roma li prendi. Dunque, una cazzata l'hai detta. Dino Reggio Emilia, vai, Dino. Adesso arrivo tardi perché ho chiamato circa un quarto d'ora fa. Volevo parlare, è uguale, di Dino, è uguale, dai. Della guerra tedesca. Sì, sì. Mi stupisce che lei si stupisca della battuta indecente di Costantino, perché la sua trasmissione è fatta su battute indecenti. No, ma non è una battuta, guardi, è molto diversa la cosa, perché non è una battuta, eh? Cioè, fosse una battuta, ma chi se ne che frega? Cos'è? Ma io sono un desiderata, cos'è? E allora perché l'ha rimossa? Perché evidentemente è una cosa che è un moto di rabbia che è scappato. No, perché evidentemente si è reso conto, come dire, ragazzi, che la battuta era pesante, quindi l'ha tolta. Ma allora, cosa pensi veramente che lui voglia? Io non ho mai augurato, caro Dino, la differenza è molto basilare. Il confine è questo: non ho mai augurato la morte a nessuno. Posso augurare la morte a un pedofilo, magari per rabbia, eccetera, ma non ho mai augurato la morte a nessuno, tantomeno per un dibattito parlamentare. Ma cosa c'entra? Ma io non sto dicendo che è fuori luogo, sto dicendo che se fosse stato. Si regge su questo. Battute di questo genere, ma volevo dire sono cose molto diverse, scusa, perché stai mettendo in dubbio, come dire, la coerenza su queste cose qui. Uno può fare tutte le battute che vuole, può essere feroce, sarcastico, tremendo, cinico, stronzo, per carità, non c'è. Ma quando uno dice seriamente, non per scherzare, sono disposto a ingrassare un chilo per ogni parlamentare grillino morto, dire davvero, ma è indecente. Vabbè, allora, ma perché uno la toglie? Perché si è augurato la morte? Anche a me è capitato di scrivere una sciocchezza e poi di toglierla per non offendere nessuno. Perché la battuta. Io non sto dicendo che va impiccato, sto dicendo che ha detto una cosa assurda. Si è augurato la morte dei parlamentari grillini, che peraltro non c'entrano un cazzo in questa vicenda dei feroci. Ecco, i parlamentari grillini. Comunque è chiaro che ha sbagliato. Ma non i parlamentari grillini c'entrano. Dino, mi sto stupendo. Dino ha detto: no, ti stupisci tu che sei quello che dice qualsiasi cosa, ma non c'entra nulla. Primo, io non mi sono augurato la morte di nessuno. Cioè, di nessuno, mai. Cioè, non mi auguro la morte di nessuno, tutt'altro. Cioè, voglio che Costantino della Gradesca. Tu hai salvato chiunque da cose aberranti di quello, e adesso vuoi la morte, la condanna di Costantino. Va bene augurarsi la morte dei parlamentari. Ma non va bene, ma tu hai salvato il siciliano, mille di questi qui che sparano. Formaggio ha difeso la sua famiglia, come si chiama quell'altro lì, l'altro miserabile, il buon anno, ma quelle tutta quella idee? Gente lì che dice delle robe, e questa qui è una che battuta, augurarsi la morte di qualcuno è una battuta mal riuscita, non è una però battuta, però hai difeso non storicamente battuta. Il formaggio, vabbè, il buon tanto, anno le hai difesi su qualunque aberrazione, e ora ti attacchi al povero Costantino della Gherardesca, che ma non mi sto attaccando a nulla, fa il showman e non il politico. Dunque è un cretino, dunque sto facendo quando lo showman tutt'altro. Necessariamente quando parla tutt'altro, quando ma parla essendo vale uno showman meno, vale non meno. Ha responsabilità politica, beh vale molto di più purtroppo quel che dice Buonanno Gio Formaggio, no? Bah, non è che vale quello meno che dice Buonanno, e quelli incidono sulla dice... nostra vita. Ah, Costantino no. Che incide. Ma come incide Costantino? Fa le leggi? Fa le leggi Costantino? Dino, che cosa volevi aggiungere? Dai. La volevo aggiungere che sui grillini menti sapendo di mentire. I grillini hanno detto per un mese che avrebbero votato per principio la legge che era stata presentata. Ed è stata presentata così perché, essendo una legge di principi, non ha vincoli di maggioranza. Quando si sono accorti che... non votarla faceva un danno al PD, hanno cambiato idea, quindi che lasciano stare i grillini, i principi. Per fortuna fanno per fortuna per meno male, viva la politica, per l'1% fanno come tutti gli sono altri. All'opposizione e fanno quello sì. Che vogliono, punto, non esatto. Hanno nessun obbligo di nessun tipo, nessun obbligo. Non mi sembra che ci fosse un patto però sono uguali a tutti gli altri. Ma non sono uguali a tutti gli altri, semplicemente sì. Dicono no alla questione, hanno lasciato libertà di coscienza sulle adozioni e dicono no al fatto di non votare gli emendamenti. Mi sembra una cosa assolutamente normale, cioè non... che poi si siano imbrogliati tra di loro, abbiano avuto incertezze su cosa fare, su questo non c'è dubbio. Lo stesso atteggiamento di Grillo, prima una cosa, poi l'altra, incertezza, libertà di coscienza, libertà di voto, non c'è dubbio. Ma addossare ai grillini la responsabilità del fatto che non si vota la legge Cirinnà in questi giorni è ridicolo. Il PD non sa cosa fare, ha una fronda interna. Hanno fatto una legge semipasticciata, non sanno che pesci prendere sulle adozioni, sono bersagliati da tutte le parti e si attaccano ai grillini, il che è francamente patetico. Dai. Allora, abbiamo con noi grande ritorno alla Zanzara, il cittadino Mario Michele Giarrusso, 5 Stelle. Buonasera, Giarrusso, come va? Buonasera a voi, dite la verità, mi sono mancato. Sì, molto. Beh, guardi, tantissimo, devo dire la verità, perché da capogruppo avevi... come ti possono mancare le emorroidi? Guarda. No, vabbè, ma dai, subito livello. Come al solito, no, dai, dico su. Ma scusa, una persona però, manca, no. Non mi era venuto questo abbinamento Parenzo Morroi, non mi era venuto, però è una cosa. No, però ci è mancato, perché lui è proprio una brava e bella persona. Guarda, questo voglio dirlo in apertura di tutto. Come brava? L'hai sempre criticato, l'hai sempre massacrato, no, dicendo brava... che è un estremista. No, o... io la penso diversamente da lui, per sua fortuna, ma è una brava e anche proprio una bella persona. Lo diciamo noi per i politici, vanno criticati chi si occupa della cosa pubblica. Scusami, cittadino, dimmi una cosa, ma la questione di Costantino della Lega Gradesca che vuole ingrassare un chilo per ogni parlamentare grillino morto, conduttore... Mi pare che questo signore è disoccupato e aspira a dirigere qualcosa in Rai. No, no, disoccupato non è. La reazione è questa, no? Se tu insulti qualche grillino... hai subito una strada aperta in Rai. E ah, tu dici che lavorando lui alla Rai non è disoccupato comunque, perché conduce una trasmissione che è Pechino Express, è un programma su Radio 2, adesso non so se... Ah, ma anche bravissimo. Ma gliel'avevamo tolta. No, ha avuto grande successo, peraltro. Comunque tu dici che siccome ha capito l'aria renziana... certo, anche ha pensato ora ci mettono al mio posto qualcuno che è renziano, devo fare il più renziano dei renziani, no? È ovvio, questo è il conformismo. Ma comunque guarda che la frase è incredibile, ragazzi, adesso io non mi voglio attaccare a questa frase, chi se ne frega, sono disposto a ingrassare un chilo per ogni parlamentare grillino morto, cioè come ti danno anche a te probabilmente la responsabilità di aver fatto ritardare l'approvazione della Cirinnà, cioè dice che un grillino morto... Ma veramente questa è una cosa incredibile, noi che non abbiamo presentato nemmeno un emendamento per farla volare questa legge... Cioè voi non avete presentato nessun emendamento? Nessun emendamento, abbiamo detto no. Cioè il PD, legge, è il PD che ha presentato. Vabbè, però il non PD, il PD, il problema è che il PD fa il PD, e questo è il problema. Ragazzi, mi dite un attimo da dove è collegato Giarrusso? Se dall'antro. Mi sente bene? No, ti sento male, Michè, ti sento male. Hai appena pronunciato la frase tragica, appena no, ho detto no, PD, è caduto il collegamento. Lo so, non è che è caduto, è che purtroppo si sente male. Ciao. Let's go. Allora, Fabio dalla provincia di Caltanissetta. Ragazzi, io voglio un collegamento normale con una voce chiara. Se non c'è la voce chiara, me ne sbatto i coglioni. Fabio dalla provincia di Caltanissetta. Fabio. Sì, pronto? Dimmi. Niente, volevo intervenire a proposito del discorso dello sbattezzo. Dimmi, Fabio, dimmi. Sì, no, allora, due giorni fa c'è stato un ospite che è intervenuto a proposito dello sbattezzo. Insomma, ha sostenuto che coloro i quali decidono di sbattezzarsi sono degli ignoranti. Sì. Ora, sinceramente, essere definiti degli ignoranti solamente perché, secondo lui, la sola rimozione del proprio nominativo dal registro della propria parrocchia non equivalga, diciamo, alla cancellazione del sacramento in quanto tale, secondo me è una cretinata. A prescindere dal fatto che il sacramento... No, Fabio, però, adesso... Ma che cosa vuoi dire? Niente. Andiamo al concreto. Allora, se no, rischiamo di annoiare la persona. Che cosa... Sì. Ti sei sbattezzato? Ti vuoi sbattezzare? Che vuoi fare? Allora, il punto è che io mi voglio sbattezzare, giusto? Sì. Ma lo voglio fare perché non voglio essere riconosciuto come cattolico dallo Stato italiano. Allora? In questo momento mi riconosce come cattolico, oppure io me ne vado in Germania, per esempio, per un motivo di lavoro e devo trasferirmi e sono costretto a pagare una tassa per il solo fatto di essere cattolico. Io non lo sono, perché non mi sento cattolico. Adesso questo è da verificare. Io la voglio pagare. E allora io mi sbattezzo. Se poi questo signore sostiene che io sono ignorante perché lui è convinto che io comunque rimango cattolico e rimango facente parte della sua setta a cui io non credo, perché è basata su cose immaginarie, a me non me ne frega niente. Cioè, secondo me lo sta dicendo una cretinata, ignorante ci sarà lui. Va bene, Fabio. Massimo da Livorno, vai. Buonasera. Dimmi. Siete veramente simpatici tutti e due. Vai, dimmi, Massimo, dai. Allora, senti, io volevo semplicemente dire una cosa. Non vorrei passare da ignorante, però dico una semplice cosa. Sono stati fatti tanti referendum, addirittura uno di aprile ora, a quanto ho capito, per le trivelle o qualcosa del genere. Ma dico io, ma queste benedette unioni civili, questo benedetto step child adoption, come voglia chiamare, ma dico io, ma perché non si mette mano veramente? Sì, però il referendum, amico mio, si fa quando c'è una legge. Se non c'è una legge non si può fare il referendum, è molto chiaro. Alcuni già lo preannunciano, se fosse approvata la cosiddetta adozione del partner, adozione gay, qualcuno promuoverà un referendum per cancellare quella legge, come è stato fatto col divorzio, con l'aborto. Mi sembrerebbe la cosa più giusta. Sì, ma però viene dopo, non essendoci la legge, che si abolisce, siccome in Italia il referendum è abrogativo, che ti abolisci se non c'è nulla? Non c'è niente da abolire, per cui Massimo, cioè non è che si può fare, non esistono i referendum consultivi, quello è, dai, Stefano dalla provincia di Roma. Ciao caro Cruciani. Dimmi. Senti, premesso che capisco che si chiama la zanzara, tu spesso sei spigoloso, antipatico, però io davvero non riesco a capire perché ti tieni quel personaggio vicino a te che supera proprio in termini di maleducazione e di ignoranza. Per esempio? Qualunque, ma dai, come si è riferito prima a quell'altro ascoltatore. Chi è questo miserabile? Come si chiama? L'altro ascoltatore. Come si chiama questo miserabile? Stefano. Stefano da Roma. Quando parli Stefano. Di te stesso, non è che, capito? Stefano, quando parli miserabile Stefano, devi perfetto. Guardarti allo specchio. Sì. Allora, io volevo fare un appello ai ladri. Sì. E volevo sì. dire, cari signori Stefano ladri, da Roma. Sì, esatto. Sì. No, prego, fate un lavoro, ladri, rapinatori sì. e altri soggetti che si introducono Stefano, nei casi altrui. Certo, visto che fate un lavoro già pericoloso sì. e tutto quanto, non entrate in casa se non sapete che reazioni potete avere dai loro legittimi occupanti. Andate a trovare le case di gente come Parenti, sì. Brandi. Così non correte sì. il rischio. Chi è l'altro? Librandi. Questa sì. gente che sono tutti bravi seduti sì. in poltrona, io li vorrei vedere con il ladro dentro casa, loro che fanno, scusi signor ladro, abbia la compiacenza, ma chi ha mai detto una roba simile, di attendere che io chiamo la polizia, se nel frattempo non Stefano vuole Roma ha anche problemi di udito e di cerume nelle orecchie probabilmente, dai, questo è uno dai. Dei problemi, le forniremo un ottorino da laringoiatra che è in sì. convenzione con la zanzara. Grazie all'uso dell'ottorino della laringoiatra, lei potrà riacquistare l'udito e quindi anche capire. Allora, quando acquista l'udito non è detto che capisca, tutti. Perché lei può sentire ma non capire, che è diverso. Fermi tutti, non disturbate i ladri che rubano nella vostra casa. Istruzioni se ti trovi con un ladro in casa tua. Uno, lo fai accomodare. Due, se hai il cane legalo al guinzaglio. Tre, offrigli un caffè oppure se è l'ora di cena aggiungi un posto a tavola. Quattro, infine apri tutti i cassetti dei tuoi armadi così il ladro potrà scegliere tranquillamente ciò che sarà di suo gradimento e sarai così esente da noie giudiziarie. Cruciani, io domani ho un esame, se non lo passo sono cazzi vostra. La zanzara. Denti gialli, capelli unti, si lava ogni due giorni. Questo è il conduttore della Zanzara di Radio 24. Un saluto da Luigi, ciao. Allora ragazzi, ogni tanto c'è vita, caro Parenzo, anche nella trasmissione di Minoli. C'è acqua su Marte, come si può dire? So cosa vuoi dire, quindi non riesco. Beh, è successo un casino questa mattina con Brunetta. Ah, me l'hanno segnalato, certo. Beh, certo, c'è Renziano. Fai riascoltare Renziano, aggressione Renziano subito. C'è stato uno scontro formidabile, ogni tanto c'è vita anche lì. Oggi il bail-in è stato approvato in Europa e in Italia da tutti, anche da voi. No, poi adesso, no. Come no? Altre come informazioni? No, Brunetta. Dottor Minoli, la prima caratteristica di un giornalista è quella di dire le cose giuste. Noi abbiamo votato contro, ma cosa sta dicendo? Cioè, voi in Europa noi abbiamo votato contro in Italia. Dottor Minoli, non cambi le carte in tavola, io per non favore. Le cambio. Non cambi le... Onorevole Brunetta. Del 50, onorevole Minoli, se no, lei mi lascia parlare, onorevole. Se mi lascia parlare, altrimenti questa intervista non ha alcun senso. Ma guardi, mi pare che lei sta parlando quanto vuole. No, se, non sta parlando quanto vuole, sto finendo di parlare domande. E lei mi interrompe continuamente. No, io veramente le ho fatto una domanda, non mi ha voluto rispondere. Ma come non voleva rispondere? Lei ha fatto una domanda sbagliata. No, io ne ho fatto una giusta, le ho chiesto cosa ha fatto in Europa. Lei ha fatto una domanda sbagliata. Le domande, non ci sono le domande giuste, le domande sbagliate. Lei ha fatto una domanda sbagliata. Sono le domande. Da una domanda sbagliata, se vuole andiamo avanti. Ma se non mattina. Urla è meglio, non c'è bisogno. Non siamo in un talk show dove ma lei è abituato. Dottor Minoli, non siamo alla RAI. No, dottor Minoli, non c'entra? Siamo alla RAI della Bignardi. Ma non siamo alla RAI, Bignardi. Siamo a una radio del Sole 24 ore. Penso anch'io lei, che la RAI della dottor Minoli, lei ha una arroganza in questo momento inaccettabile, insopportabile. Ma forse non si accorge della sua. Le no, chiedo... mai pari alla sua, dottor Minoli. Allora, siamo mai uno alla sua. A uno. Se vuole che andiamo avanti, andiamo avanti. Se vuole continuare così, continuiamo così. Se lei mi fa fare le domande, prova a rispondere. No, lei parte da domande sbagliate, fate le domande, se fate le domande fare, corrette. Mi fa fare le domande, posso? Sì. Ma se lei non risponde alla domanda. Ma no, io fatto. Non rispondo alle domande sbagliate, dottor Minoli, dico che sono sbagliate. Dove erano e dico che sono sbagliate. Guardi no, che ma basta, Brunetta, basta. Basta lei Minoli, basta lei Minoli. Basta lei Minoli. Dove erano la Consob e la Banca d'Italia? È quello che io ho chiesto nella mia richiesta di commissione parlamentare di inchiesta. Dottor Minoli. È mitomane proprio. No, lei è un mitomane è anche scortese e anche offensivo. È anche offensivo, ma non importa. Adesso ho capito perché l'hanno cacciata dalla RAI. Senta, dove erano la Consob e la Banca d'Italia? È quello che ho chiesto io. Ma io glielo chiedo a lei se mi dà una risposta. È quello che ho chiesto io nella mia commissione. Bravo. La domanda di commissione parlamentare d'inchiesta. È stata la mia domanda base. È fuori il problema, c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, dottor Minoli. La sua ignoranza veramente è pari alla sua arroganza. No, la sua ignoranza e la sua arroganza, dottor Minoli. Bene, io le sto ringrazio. Dicendo che quando ho chiesto alla commissione d'inchiesta, io ho fatto riferimento a Consob e Banca d'Italia. Beh, spettacolare. Spettacolare. Beh, grande combattente dottor Minoli, eh. Sì, si è combattuto grande la grande. Combattente. Assolutamente, assolutamente. E nel merito credo abbia anche ragione, eh. Assolutamente. Sulla questione delle domande, ma Brunetta è fatto così, quando gli fa una domanda. No, è sbagliato. È sbagliato, è improprio, idiota e cretino, ma non voglio offendere, è anche comunista peraltro sei stato. Quello a un certo Cruciani, punto un gli ha detto mitomane, quello mitomane. Ha perso la brocca, ha detto sì, mitomane. Mitomane. No, rimandalo. Voglio usarlo come nel telefonino. Voglio mettere adesso questo cellulare. Nel cellulare sì. Questo voglio mettere tutta l'intervista del cellulare. Voglio mettere come suoneria. Allora Gianni da Milano 800 24 00 24. Vai. Ma Brunetta è fatto così. Quando gli dici una cosa che non gli sta bene, ti dice che sei ignorante, che sei un venduto, eccetera. Poi che cazzo c'entra la RAI, che quello è andato per i cazzi suoi. Vabbè, comunque lasciamo perdere, chi se ne frega. No, perché sai che lui c'ha il dentino avvelenato con la signora Bignardi, capito? Quindi per quello ha detto sì, non la RAI della Bignardi, che non c'entra una mazza in nulla, questo caso. Non c'entra nulla, c'entrava niente. Nulla. Zero, però l'ho detto, diffamato, l'ho detto intanto. Gianni da Milano, vai. Buonasera, Gianni. Io sì. Chiamo perché volevo dire una cosa a Parenzo, no? Volevo dirgli che l'allievo ha superato il maestro. Siccome ho sempre pensato che il più grande leccaculo era Emilio Fede, ma penso l'ha veramente superato. Io gli vorrei chiedere che se l'avesse detta Grillo, quella frase che ha detto quello stura a sedere là, vorrei capire, ci avrebbe fatto 7 puntate come minimo. Ma cosa dice? Ah, sulla frase di Costantino della Gradesca. È ma un po'... è una cosa gravissima, tu l'hai liquidata in 30 secondi come una battuta. Tu spiegami se l'avesse detta io Grillo. No. Io no. No, tu, io lui, no. L'altro, quello che c'hai di fianco. Te hai fatto scusi, anche Nobel, hai liquidato però... l'altro. Scusi, Nobel. Che non si sentiva, si sentiva premio Nobel. Scusi, premio Nobel no, per non l'idiozia. Ho non si sentiva una mazza della tele. No, del no collegamento... io veramente sentivo benissimo. Comunque. Il collegamento telefonico con chi? Con Gianrusso, non si sentiva una mazza. Esatto, io lo sentivo. Comunque lo sentivi male. A me non mi va di fare i collegamenti a cazzo di cane, scusate. Di questo, avesse detto Grillo una frase del genere, quell'affare lì che c'hai di fianco lì, avrebbe fatto scusi, sette puntate come minimo. Beh, ma non è la Nobel. Stessa cosa, quello non ha nessun incarico politico. Esatto, bravo, meno male. Ma quell'altro è un leader di partito. Ma cosa vuol dire? Ma è una cosa gravissima lo stesso, anche che non ha incarichi politici, cosa vuol dire? Anche quelli che amano, che dicono le cazzate sull'immigrazione, tutte quelle cose lì, lui gli dà addosso, mica hanno ruoli politici. No, no, ma infatti secondo me comunque è una cosa secondo da... Secondo me Parenzo ha toppato, mi dispiace, lo considero un uomo molto colto, molto intelligente, però stavolta veramente toppato. Ho detto che Costantino della Gherardesca ha sicuramente sbagliato. Adesso gli imputate pure di aver cancellato il beh, post. Sì, un po' sì, certo. Però mettiamo le cose in ordine, a posto. Uno fa lo showman e conduce dei programmi alla radio e alla televisione di grande successo. Gli altri fanno politica e fanno i legislatori. Anche un militante della causa omosessuale. Beh, ma questo non è grande un reato militante in questo paese. No, assolutamente, no, chi ha detto appunto, che è un reato? Ed è un militante della causa omosessuale, certo, come sì. Ce ne sono tanti, ovvio. E ha fatto una battuta. Altra cosa è Grillo, che era un dirigente politico e il capo di un partito. No, ma sono due cose diverse, nessuno esatto. Diceva la stessa cosa. No, perché siccome questo qui, non so neanche come si chiama, dice che... No, Gianni si chiama, Gianni. Gianni ci sei? No, l'ottimo Gianni. Ci sei, Gianni? Certo che ci sono. No, ecco. Va bene, ciao, Oreste Pavia, dai. Eccola, no, io propongo, mi senti? Sì, dimmi Oreste, dimmi. No, un argomento solo più divertente, giusto per tirare un po' il respiro con tutti questi scassacazzi qui, no? A proposito dei tuoi capelli unti e del fatto che fai la doccia ogni due giorni, perché pure... Beh, insomma, adesso non esageriamo. No, vabbè, dai. Ma è così, ma... Sì, ti dico, sì. Ho trovato un antidoto, anche a me hanno regalato una sala, una cosa, che è bellissima, perché è un sistema per fare la doccia, che oltretutto rinfresca bene anche le intimità femminili, dove l'acqua è già profumata, e saponata e oleata, che fa un corpo libidinoso molto bello. E in più ti puoi lavare ogni giorno i capelli, che non ti fa male, ti fa belli soffici. Sì. E in più il corpo è come dire... Non ho capito, sei il produttore di questa roba qui che ci vuoi propinare. No, non ti dico neanche il nome, no, ti sto dicendo che volendo... Cioè hai installato, tu ci hai chiamato, ma quello va bene per spezzare un po' la polemica. Hai installato un sistema di doccia con acqua profumata? Sì, è anche oleata, ma era per dirti, siccome ti dicono che tu puzzi, che lo dicevano anche a me... Non puzzo per niente, io non ho detto... No, quando corre, quando c'è il sudore, è normale, queste cose, quello, allora, cioè, non è così strano puzzare... È più vasodilata, non so se rendo l'idea, no? Ma cos'è che vasodilata, scusa? Sai, benissimo, quello... Sai che siamo un po' pruriginosi noi ometti. No, ma non ho capito. Che cos'è che... Vasodilata. Cioè, questo tipo di doccia vasodilata. Favorisce... Sì, no, ho capito, benissimo. Sì, perché sono questi vapori... Cioè, grazie alla doccia? No. Sì, grazie alla doccia. Questo per dire, non disperare se vuoi qualcosa di particolare. Cioè, se la fai regalare a qualcuno a Natale, a Pasqua, a compleanno... Vabbè, la doccia profumata che è anche da, funge anche da vasodilatatore. Bravissimo. Una cosa incredibile. Ciao. La rivedi, ciao. Ciao, ciao. Zanzara all day long. La zanzara. Ho ascoltato ora in podcast Donato da Varese. Più Donato da Varese, meno Parenzo. Più Donato da Varese, meno Parenzo. Anything was possible. It could- cruise control and rub my eyes. The last 3 days and the rain was unstoppable. Allora andiamo a Marco, provincia di Frosinone, vai. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Sei un furbone, eravamo in quattro in macchina, ce ne siamo accorti tutti. Gianrusso stava parlando, hai messo un effetto fintissimo di rumore, gli hai segato la linea e hai messo i Ramones. Hai fatto bene, però adesso per favore richiamalo e ci fai sentire un po' la sua versione di questa boiata sulla votazione delle unioni civili, va bene? Lo richiami? Marco, abbi pazienza, io posso decidere quando una roba si sente o non si sente. C'era una voce metallica che veniva dall'oltretomba. Ma si come sentiva se fosse... benissimo, dai Cruciani. Ma dove si sentiva benissimo? Vabbè, perfettamente. Ma non credo proprio. Comunque adesso riproviamo, per carità. Dai, richiamalo per ma favore. Ma che pensi che c'è la censura su Gianrusso? No, ma che Gianrusso lo chiamate sempre? Se perché è simpatico. Mo vediamo, ma ragazzi si sentiva male comunque, secondo me. Roberto da Reggio Emilia, vai Roberto. Ciao Cruciani. Dimmi. Senti, parlando del fatto di sbattezzarsi, cioè dei sacramenti della Chiesa cristiana, cattolica. Sì. Io sono divorziato, ho fatto 3 anni da separato e adesso sono 7 anni che sono divorziato. E allora? E volevo andare nei preti, perché ho già una certa età, quasi sono in pensione, e mi sarebbe piaciuto andare nei preti, però mi ha detto il vescovo che non è possibile perché io risulto ancora coniugato. Allora? Pur essendo sui documenti ancora di stato di stato libero. E vabbè, ma quello sono problemi tuoi però, Roberto, qual è il punto? Allora mi ha detto così che l'unica soluzione per andare nei preti sarebbe quello di diventare, cioè di rimanere vedovo. Ma mia moglie non ho capito, ma perché vuoi diventare prete? Perché ho visto una bella chiesetta durante il mio lavoro, io giro per la campagna. Ma stai scherzando, dai, non stai dicendo sul serio. No, dai. Ma ti giuro. A parte il fatto che ho la faccia da prete, mi scambiano spesso per un prete. Ma scusa, quanti anni hai tu, Roberto? Io ho 60 anni. Cioè, tu a 60 anni vuoi diventare prete? A parte che non credo sia possibile che a 60 anni... Sì, è possibile. Lo fanno i vedovi anche se hanno dei figli, così. A 60 anni lo posso, se sono ancora... Cioè, tu puoi diventare prete, però ti hanno detto, siccome sei divorziato, per la Chiesa, ovviamente, se rimani sposato perché tu non hai chiesto l'annullamento... Esatto. E dunque chiedi l'annullamento. Potrei chiedere l'annullamento al sacerdote, ma... Io ho 2 figli, maschio e femmina, quindi non me lo concedono. Ho consumato il matrimonio, quindi ci sono dei problemi, non riescono a... Cioè l'unica è che ammazzi tua moglie? Sì, ma appunto, dopo vado in galera. No, ma io non ho capito una cosa. Una chiesetta che senza prete, che è una cosa, una chiesa da favole, in un paesino che sembra un paesino di quelli delle favole. Ma tu vuoi diventare prete per comodità, per appropriarti di questa chiesetta? Per avere la perpetua? Per avere, no, la perpetua non credo che esista più. Ma però io ti spiego, io capito, per prenderti, per appropriarti... Sì, per appropriarti di una piccola chiesetta bella in campagna, come una specie di seconda casa in campagna. In una località dove si mangia anche bene, che fanno un cotechino che è la fine del mondo. Sì, ma questa non è un bel biglietto da visita per la chiesa, eh? Cioè, dire io vorrei quella chiesa meravigliosa in campagna. Io è sincero, cioè non voglio mica essere uno di quei proprio... Beh, ma non ti prenderanno, in quel club non ti prenderanno. In quel club non allora niente. Hai mai toccato un bambino? Hai mai toccato il culo a un bambino? Hai mai commesso atti? No, lo so, è un problema quello là. È un problema. Se avessi commesso un piccolo atto di pedofilia, capace pure che ti prendono, ti assumono. Quello è probabile che sia così. Però siccome ti mancano le basi, capito? Ti manca un piccolo atto di pedofilia, una oppure che ne so, un'intemerata contro augurare la morte alla cirinnà. Queste cose qui, se non hai questo, amico mio, la casa mi sembra poco, cioè il bisogno di una casa in campagna mi sembra poco. Se hai commesso qualche atto nei confronti di un ragazzino, se hai augurato la morte a una parlamentare della Repubblica, questo ti dà dei titoli, amico mio, ti mancano le basi, ciao. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Cruciani, voglio lo scambio di coppia. La mia ragazza non me lo permette. Che cazzo ridi? Allora andiamo a Taranto, Carlo, vai. Buonasera. Dimmi caro, dimmi. Ecco, innanzitutto volevo dirti che bruttarello come sei. Sì. Maschio per modo di dire, non ti lavi e vai avanti così che è la vita più bella. Beh, insomma, ma non è vero che non mi lavo. Ho detto semplicemente che non uso l'acqua ma cazzo sì, di cane come se nulla fosse, ma non per risparmio, scusa, semplicemente perché mi dà fastidio. Faccio la doccia una volta ogni due giorni, tre giorni, così quando mi capita. Lascia che esagero un po' anch'io, fa spettacolo, dai. Ma certo che lo so che non sei mica un puzzolente. Beh no, questo guardi, comunque c'è l'opinione discordante. No, però volevo dire subito a Parenzio che tutti gli insulti che mi farà li riterrò un complimento. Perché Parenzio mi sembra un venduto con sta storia che difende gli zingari a tutti i costi. Ma ha mai avuto un problema con gli zingari? Mi sembra sia passato un messaggio sbagliato in tutti questi anni di partecipazione. No, non è un però non è un caso. Sei sempre lì che difendi. Come si chiama questo? Come si chiama questo che parla? Carlo. Insultami. No, ma non merita neanche. Ma tu godi a essere insultato. No, ma che non merita? Sei tu che non meriti la mia telefonata. Gode. Ma cosa credi di essere? Gode. Scendi da quel piedistallo. Non le darò la soddisfazione di insultarla, perché da contratto ne posso insultare 10 a trasmissione. Siamo già oltre il limite con lei, quindi Carlo ma è graziato. Ma poi perché mi dai del lei? Torni nella sua caverna, caro Carlo, ci risentiamo. Caro, io abito in un alloggio, che tu neanche ti immagini. Torni nella spelonca. Sei tu che torni nella spelonca, amico mio, spelonca, torni nella spelonca. Perché so che sei un venduto, ecco cosa sei. E allora fai. Lei di cosa si occupa in genere, oltre a chiamare la radio? Io mi occupo dei fatti miei. Benissimo. Tu occupati dei tuoi. E questo lo faccio abitualmente. Nella vita che fai, però, Carlo? Visto che tu sei un personaggio pubblico, noi ci possiamo occupare anche dei fatti tuoi. Questo è vero, però. Questo un po' è vero. Sì, sì, no. Però no, se ti chiedo, Carlo, se ti chiedo cosa fai nella vita, se ti chiedo cosa fai nella vita, potresti anche rispondere, a meno che non fai il camorrista. Ma io sono un pensionato allegro. Un pensionato allegro. Nonostante quello stronzo di Renzi. Quello io stronzo sono una persona di Renzi. Che vive, quando vado a dormire la sera, dico, vado ancora a dormire. Quando mi sveglio al mattino, mi sono svegliato. E quindi vado in quel posto a tutti. Beh sì, la vita. Cioè non fai un cazzo dalla mattina alla sera, questa è la sostanza. Beh no, faccio. Che fai? Sapessi cosa faccio, non ho bisogno neanche del viaggio. Che fai? Età. Ah, trombi come un matto? No, vabbè, come un matto. Quel che basta. Ma oltre a questa attività, cosa fai? Il pensionato? Ma ho scoperto delle cose molto belle. Tipo? Io mi occupo di poesia napoletana. Di poesia napoletana? Beato te, amico mio. Dio, mi occupo di poesia napoletana. Sì. Sì, vabbè, sì, ciao amico mio, ciao. Inauguriamo, cari amici della Zanzara, caro Parenzo, una nuova rubrichina. Aia. Sfidate Cruciani e Parenzo. Ci è arrivata questa piccola sfida da Napoli, ma così ci è arrivata spontanea, non l'abbiamo costruita noi. No, questo Davide, un tale da Napoli, Davide, ci ha sfidato. Io sto qui con Davide. Davide ti affronta e non ha paura di te. Ti manda un messaggio. Io ci sto aspettando, ci sta una chiamata tu. Hai sentito? Beh. Allora è arrivato qualche giorno fa, Parenzo, questo messaggio, no? È arrivato questo messaggio. Però amichevole, mi pare. No. Ti sto aspettando, ti sto aspettando. Poi ne è arrivato un altro. Aia. Ne è arrivato un altro in cui si diceva: vabbè, ma stiamo aspettando qui. Vuoi sfidare Davide sui gay? E noi abbiamo chiamato. Pronto? Davide? Sì, chi è? Sono Cruciani. Ciao, dimmi. Ciao Davide, ma allora su cosa vuoi sfidarci, sui gay? Guarda che sono contro queste cose. Ma sei contro, che vuol dire? Sono contro, che cioè non sono d'accordo riguardando questi gay. Ma che vuol dire non sei d'accordo riguardando questi gay? Spiegami. Cioè, questi gay che esistono sulla faccia della terra, per me non ci dovrebbero proprio stare. Ma che vuol dire non ci devono stare sulla faccia della terra? Come che vuol dire? Che vuol dire? Che devono sparire dalla faccia della terra? Devono proprio sparire, sì, per me sì. Non devono proprio esistere. Ah, non devono esistere i gay? No. Cioè, e che faresti con i gay? Li sopprimi, li uccidi, li ammazzi? Che fai? Io, se fosse per me, se fosse tuo amico, io proprio li impiccherei proprio. Ma dai, su, Davide! Secondo te tu sei d'accordo su queste cose? Ma sei proprio un cretino! Cioè, scemo? Io sono un cretino, cioè sono, tu sei proprio uno stronzo. Ma scusa, Davide, ma che vuol dire? Tu li ammazzeresti sul serio? Ma secondo te no? Secondo me no. Tu che sei una persona molto intelligente. No, non sono intelligente, non credo di essere molto intelligente. Sicuramente più intelligente di te. Che futuro possono dare questi casi sulla terra? Ma tu che futuro puoi dare? Tu sei stupido. Io sono stupido. Scusa un attimo, tu invece che futuro puoi dare? Spiegami. Io posso dare un futuro che mi posso sposare un giorno. Una ragazza che può diventare mia moglie, cioè. Ma non succederà mai, perché sei così stupido che non potrà mai succedere, per fortuna. Mai succederà. Ma lo dici tu che non può succedere, tu che ne sai, fammi capire. Ma lo so, perché ti sento, e uno così non troverà mai nessuno. No, nessuno, ma spiegami, troverà. Tu se incontri manco un criceto. Se tu incontri un gay, che fai? Io se incontro un gay, io meglio che non lo incontro il gay. No, ma tu sei circondato da gay, manco lo sai, questo è il punto. Io sono circondato da gay. Sì. Certo. Ma tu sei d'accordo su questi gay? Ma che vuol dire tu sei d'accordo su questi gay? Ma che vuol dire sono d'accordo? Esistono gli omosessuali, esistono i cosiddetti froci. Tu come li chiami? Perché è una cosa buona, secondo te? Ma è così, è buono, non c'è né buono né cattivo, è così, esistono, vivono tranquillamente. Ma non ho capito, come li chiami tu? O come che vivono a fa? Come li chiamo? Io li chiamo in tutte le maniere, essendo che sono di Napoli posso chiamare gay, stronzi, froci. Stronzi, che c'è? Stronzi, perché stronzi? Io sono stronzi e basta. Ci ho fatto anche un complimento, ce l'ho chiamato così. Vabbè, comunque tu li sopprimeresti tutti, li elimineresti dalla faccia della terra. È normale. È normale, è normale. Chiamiamo Oriema, Parenzo, chiamiamo Oriema. Perché non è normale? Se io sono stupido, tu sei ancora peggio. Ma lei non è neanche stupido, è fuori da qualunque categoria. È anche difficile etichettarla perché è talmente stupido. Scusi, che dove lavora lei? È limitativo a darle io dello dove stupido. Dove lavoro? In una fabbrica. In una fabbrica? E lì non ci sono omosessuali? No. Non ci sono? Loro io stanno grandi uomini. Stanno grandi uomini. Perché tu ti senti un grande uomo, no? Io. Cioè, tu ti senti maschio. Io mi sento molto maschio. Molto maschio. Molto. Poi se vuoi vedere te lo posso dimostrare. No, ma non c'è bisogno, guarda, non ci credo assolutamente. E scusami, ma che danno ti hanno fatto i cosiddetti gay? No, nessun danno mi hanno fatto. Questo è una cosa mia, un mio pensiero. È un mio pensiero. Cioè, un pensiero mio che non ci devono proprio stare queste cose, cioè, non lo so. Non ci devono stare. Non ci devono stare le nuvole. Come dire, le nuvole non ci devono stare. Figuriamoci sposare. Stiamo parlando dei che c'entrano le nuvole. Ci sono o no le nuvole? Esistono o no le nuvole? E quindi esistono anche i gay? Stiamo parlando dei froci. Esistono i froci, come li chiami tu, in natura, capito? Esistono no, i gay. Ma le nature, gli alberi, esistono o no gli alberi in natura? Ci sono o no? Ma le foglie sono naturali. E i froci le foglie, esistono il sole? Esiste o non esiste il sole? Esiste. E allora esistono anche gli omosessuali, no? Ma non devono esistere. Non devono esistere. Ma come fai? Allora è come dire che non deve esistere il sole, stupido. Come fai? Perché dopo mi ringrazio di te. Allora, se nasce una pianta. Nasce, cioè una pianta nasce. No, una pianta non nasce bene, è malata. Tu che fai? La elimini. Ma perché sono malati? Sono malati, naturalmente. Questi sì, hanno proprio le malattie in testa, non è che. Le malattie in testa. Lui invece è sano. Sei irrecuperabile, dai. E che vuol dire irrecuperabile? Sei irrecuperabile, in italiano, irrecuperabile. Non sei in testa. Non sei recuperabile alla civiltà, non so come dirti. Cioè, appartieni al mondo così. Ma ti posso fare una domanda? Fammi una domanda, dimmi. Ma quante scopate ti fai al giorno? Ma non lo so, quante scopate mi faccio al giorno? Ma che vuol dire? Che vuol dire? Ma tu ti scopi alle donne oppure ti scopi anche gay? Ma anche se mi scopassi gay, qual è il problema? Ti devi vergognare, cioè fai schifo. Faccio schifo, cioè se io vado con un omosessuale faccio schifo. Fai proprio pena, cioè è meglio che ti elimini anche tu sulla terra. Vabbè, ma questo è fuori di testa, dai. È proprio una vergogna. È una vergogna, vabbè. Davide. È normale che sono io così, sono fiero di essere così. Beh, sarai fiero, però sei irrecuperabile. Ciao, ciao. Ciao, ciao, state buoni. Ciao. E con grande nonchalance, state buono, state buono. Carlos Genova, dai, Carlos. Carlos. Dimmi, Carlos. Senti. Sì, ti sento. Bene, ascolta, volevo dirti una cosa importantissima. Parenzo è un coglione spatentato. Perché che ha fatto che ha fatto questo stavolta? È Narcos da che Genova? Che ha fatto stavolta? Dimmi, che ha fatto? Va, Parenzo. Narcos da Genova. Ti rendi conto che stai facendo diventare famoso questo famoso da Padova, Mauro da Mantova, di che la no, non è da Padova, al massimo è da Mantova, insomma, non da Padova. Da Mantova, di dove è? Vabbè, allora Come allora? Ti rendi conto, Parenzo, che tu inciti tutti che le persone a diventare fascisti? È un coglione patentato, vero e proprio. Questo Carlos da Genova, no? Signor Carlos da Genova, sì, signor Carlos. Però non gli do soddisfazione neanche a Carlos. Non, cioè, non rispondendo, sì, neanche riconosco che ha chiamato, capito? Ah, vuoi proprio eliminarlo? Cioè, no, no, eliminarlo, per carità, che viva a lungo con, i suoi, con le sue fidanzate, sì, con, sì, con la sua, sì, col suo amichetto, con chi vuole lui, insomma, però... Non gli do neanche la soddisfazione di attaccarlo, capito? Carlos? Tanto è... Meno di preoccupare, il problema è che tu sei un coglione, basta. Vabbè, ma ragazzi, però ho capito, ma c'è un argomento per cui... No, tu dici Carlos coglione, da Genova, dai, c'è dai, un argomento o no, Carlos? Ma lì che stai parlando con Spadolini? Un argomento... Ma lì che stai parlando con Spadolini, con Pasolini, io voglio trovare con Einaudi? Stai parlando con un signore che si chiama Carlos da Genova, che chiama... Hai letto due libri, te la tiri di... Ma non mi tiro niente, quello che tira lei col naso non lo sappiamo. Questa volta ti elimino io, via. Siamo nati eterosessuali e moriremo omosessuali. La Zanzara. Tornando al discorso dei furti in casa, addirittura c'è una signora qui vicino Pisa che gli sono entrati i ladri in casa a rubare e il ladro è inciampato non mi ricordo se in uno scalino o in un punto dove non c'era una mattonella e si è fatto male. Praticamente questo ladro l'hanno arrestato, il ladro ha fatto causa alla signora, ok, perché c'era lo scalino, l'ha vinta, questa è l'Italia. Cruciani, io non riesco veramente a capire, a capacitarmi di come cazzo sia possibile che queste leggi italiane siano ancora così riguardo ai furti e alla legittima difesa. Cioè, si continua a sentire parlare di questi ladri, principalmente rom, che ti entrano in casa, fanno il cazzo che vogliono, rubano, stuprano, picchiano, malmenano, uccidono, gli fai un cazzo di graffietto, alla fine chi cazzo passa i cazzi sei sempre tu. Cioè, questo è assurdo, cioè, continua a sentir parlare, vedere in televisione trasmissioni su sto cazzo di argomento che non fa altro che montare rabbia nei cittadini, ovviamente, e non cambia mai un cazzo. Come cazzo è possibile, virgola, cazzo. Parenzo, qualche settimana fa gli zingari hanno scavalcato in casa mia e si sono portati via la caldaia. Adesso io mi devo fare la doccia fredda, devo lavarmi figlio con l'acqua fredda, mia moglie si lava con l'acqua fredda. E adesso i soldi della caldaia io non so a che cazzo chiederli. E non solo, se io mi svegliavo, li beccavo che mi stavano a fregare la caldaia, gli sparavo, me ne andavo in carcere. Secondo me non è una cosa normale che io vado in carcere perché ammazzo uno stronzo che mi frega la caldaia e mi costringe a lavarmi con l'acqua fredda. Allora continua il nostro grande concorso, indovinate il film Hard, caro Parenzo, indovinate il film Hard da questa piccola frase. Ieri sera ci sei arrivato anche tu, perché bastava ieri sera fare su Google la frase. No, ma è, no? Famoso quel film. Beh, insomma, adesso non esageriamo, Cuore di Pietra con Selene, non era famosissimo. Ma vediamo un po' se quelli che ci ascoltano riescono a indovinare il film da questa piccolissima frase. Con questa mia proposta di legge voglio restituire a tutte le donne la gestione dei loro corpi con dei parchi dell'amore. Facciamo risentire con questa mia proposta di legge. Che cos'è con questa mia proposta? Con questa mia proposta di legge voglio restituire a tutte le donne la gestione dei loro corpi con dei parchi dell'amore. Non è facile, Non è facile. Forse si riconosce l'attrice. Con questa mia proposta di legge voglio restituire alle donne i parchi dell'amore, una cosa di questo tipo. Allora, caro Parenzo, dobbiamo risolvere una questione noi prima, però. abbiamo affrontato sì, grandi temi. Vuoi parlare del bail-in? Chi hai chiamato? No, abbiamo affrontato grandi temi. Ci sono ottime firme sul Sole 24 Ore che spiegano molto bene, peraltro, il principio del bail-in. No, quindi immagino che tu voglia affrontare questo aspetto. No, mi interessa poco. E nei giorni scorsi abbiamo avuto come ospite il signor Alex Magni, uno dei più grandi imprenditori italiani, bisogna dire la verità. Alex Magni? Signor Alex Magni, lo conosci? Che impresa? Imprenditore, sì. Impresa del porno, soprattutto porno amatoriale, casalingo cosiddetto. Impresa anche quella, in fin dei conti fa parte, per carità, potrebbe far parte anche della grande famiglia di Confindustria. Non credo questo. Il quale si potrebbe candidare anche alla presidenza. Sì, assolutamente, sì, un imprenditore si potrebbe anche candidarsi. Allora, il signor Alex Magni ci ha raccontato di una storia incredibile, cioè è stato pestato, pare, dal marito di una signora che lavora con lui, perché dice lui era geloso, questa è la sostanza, no? Storiaccia, no? Putrida, una roba da. Una roba da bassi fondi, ma va bene. Una roba da bassi fondi, una roba. E cos'è? Che è un bel ambiente. Alla cronaca. Un bel ambiente. Vabbè, un bel ambiente. Ambiente maniale. Allora, qual era. Che cos'è che dobbiamo capire? È vero o no? Non c'è molto da capire. Sì, è vero o no quello che ci ha raccontato il signor Magni? Cioè dire che una signora che lavora con lui. Che lavora? Un'altra pornostar, amico mio? Ma non è che bisogna usare. Non necessariamente una pornostar. Tu sai che con signor Magni vengono reclutate anche signore che non fanno. Signore e signorine che non fanno le pornostar di mestiere. Fanno? Ogni tanto si divertono a fare qualche film. Vabbè, ma al di là di questo, una signora lo cercava per motivi sessuali. Lui diceva di no. Il marito si è arrabbiato e lo ha pestato di botte. A sua volta Magni ha buttato dalle scale questo signore, il marito di questa signora che è qui con noi e si chiama la protagonista di tutto ciò, caro Parenzo. Caspita, la grande protagonista. Fermate le rotative del Corriere della Sera, giornale fondato nel 1876. Fermate le rotative del Sole 24 Ore, napoletano, ti prego, blocca tutto, niente notizie, borse. Ferma tutto perché c'è lo scoop. Alla Zanzara parla la pornostar che sarebbe al centro di tutto questo scontro con un grande imprenditore tal, non mi ricordo neanche come cazzo Alex si chiama. Magni. Alex Magni. Lei si chiama Roberta Farnese. Buonasera. Come stai, cara Roberta? Quanti anni hai? Si può chiedere quanti anni hai? Ma sì, dai, no, sono delle 75, quindi facciamo i conti. Un anno più di me, 41. No, 41. 41 adesso in maggio, sì. Azza, sì, 41 anni. 75, ragazzi, ma tu sono di mestiere, 76. Che fai? Io di mestiere faccio la casalingua. No, casalinga, dai. La casalingua. La signora, hai capito? No, la casalingua. Sì. Meraviglioso. No, ma scherza quanto vuoi, non ti frenare, qui non no, è posto. Ma hai capito perché le donne non ha mai lasciate a casa. Succede quello dopo. Allora, sia Roberta Farnese, 41 anni, fa la casalinga, cioè vieni mantenuta da tuo marito, che fai? Cioè... No, veramente no, adesso ero una casalinga, poi dopo conoscendo Alex così, adesso sono porno attrice e anche produttrice comunque, perché io produco anche i film. Produci pure, benissimo. Che se produce ormai non si capisce perché ormai non vendono più nulla, si vendono no, solo. No, non è vero, no, l'amatoriale va tantissimo. L'amatoriale va tantissimo. Sì. Poi io faccio anche un genere public, quindi è ancora più simpatico. Cos'è, scusi, il genere public? Che cos'è il genere public? Il genere public, tipo Carsès, così. All'aperto. Cioè, film girati all'aperto, insomma. Girati all'aperto. Situazioni molto simpatiche. E va molto? Chissà come sono contenti in famiglia. No, in famiglia, il marito lo sa. Il marito è... No, dico in generale in famiglia. Il marito è anche protagonista, anche il marito? No, il marito gira sempre con me. Sì, però non gira materialmente, non è protagonista nei film. Anche pure fa l'attore, pure lui. Beh, è una famiglia sfasciata, ragazzi. No, miei, ma non è dite vero. Quello che ma volete, però è una porcheria. Siamo felicissimi invece. Ma certo, dai, ma ragazzi, senza fatemelo dire, è una porcheria, ragazzi. Assoluta, ragazzi miei. Però va bene. Avete figli, signora Farnese? Sì, ne abbiamo una grande, ma lei fa la sua vita, lei è contenta. Cioè, lei è a conoscenza della vostra attività? Ma quanti anni ha? Ma tutto normale per voi? Ma perché? Ma sono matto io probabilmente, ragazzi, però. Ma adesso è normalità. No, ma quello figuriamoci, però. Normale. Scusi, la Allegra Famigliola. Adesso fate passare. No, ma io mi arrabbio su questo. Perché fate passare me per un matto bacchettone. Sembra normale che c'è la signora che era una casalinga, che dice addirittura casalingua. Col marito, che alle volte è protagonista. C'è una figlia che sa e fanno sesso alla luce del sole. Cioè, per strada. Ed è normale, il matto sono io. Cioè, qui. una cosa che a me fa impazzire è un po' questa, capito? Ma no, ma cioè, va bene così. Per me è normalissimo, sì, per me è normalissimo. Ma, trattasi dalla vita normale, amico mio. Sì. C'è gente che fa, tu scusa, fai il giornalista, tua moglie fa la giornalista, io faccio il conduttore radiofonico sì. e lei fa la pornostar, fa la casalinga. È la stessa cosa, fare la pornostar oppure fare all'aperto, al chiuso, oppure fare il fattorino, oppure fare il direttore del Sole 24 ore. È la stessa cosa. Fare il direttore del Sole 24 ore non è fare come la signora Farnese. Per me ha la stessa, come dire, la stessa legittimità, la stessa. Mamma come mia, dire, tremano le rotative, tremano le rotative. Guarda, fate presto, fate presto. Allora, io dico una cosa. Che succede là? La signora Farnese, che chi è? Che succede nella sua famiglia? Ancora la zia che fa invece? No, non lo so, chiedo perché sai, so, scopro no, di tutto. Niente, niente. La zia fa le riprese. Ah, dice, cazzo, una bella famiglia quella però, eh. La zia fa le riprese e il nonno, no, quello si toglie il catetere e guarda. Sì, guarda, guarda, sì. Ma il clima lì a casa fa un mese. Ma dai, ragazzi, ma non è normale, porca puttana, su. Non è normale. Ma sì, che è normale. Io vedi che devo mettere più, devo parlare sempre di queste cose, perché ti scateni. No, ma perché è incredibile, perché poi sembra un bacchettone. Ma non lo sono, veramente. Ma hai risollevato la serata, guarda, era un po' triste. Vediamo, vediamo il nonno. Il nonno, che visto, cazzo fa il nonno ora? Ragazzi, il sesso è felicità, hai visto? Mi state divertendo. Beh, Parenzo, stai parlando di altre cose. Però dico, sì. Signora Farnese, ma chi è che ha picchiato chi? Chi è il colpevole allora, della storiaccia? Intanto, ecco, intanto, non ero io a cercare Alex, ma era lui che continuava a cercare me. Ah, importante, sempre... Parenzo, fermiamo tutto. Sì, è andato. Cambia il corso della storia questo, cambia un pochino. Porca miseria, ragazzi. Allora, aspetta, Roberta, però questo è importante sottolineare. Cioè, sì, non eri tu. Strano, era lui, abbiamo fatto lui. Delle breaking news. Era lui che cercava per fare. Lascia a casa quello stupido tuo marito. Vieni, con... vieni da solo. Cioè, voleva fare sì, sesso privato lui, sesso in privato lui. Sì, ma vieni fuori che dai, trova una scusa. Con vieni, dici che andiamo a fare lo spot e poi invece andiamo fuori a cena. Ah, e poi trombiamo. E poi trombiamo. Poi dopo il cioè, io, e poi io tuo marito. Per lei è inaccettabile. No, il fatto questo. Che il giorno dopo, no. ride anche lei perché si rende conto che dice no, inaccettabile. Per vabbè, lei, ma ci sei stata tu o no? In privato, sempre siamo fuori dallo. Assolutamente no. Ma assolutamente no. Perché? E tuo marito perché si è arrabbiato? Si è arrabbiato perché alla sera ha visto questi messaggi. Sono detto, guarda, ha detto, guarda, non ne posso più di Alex, sempre qua che comunque messaggio. Lui al momento non ha detto niente. Ha detto, ma sì, dai, lascialo stare. Il giorno dopo ci siamo trovati che dovevamo fare uno spot io e Alex. Sì. Senza parenti, senza i parenti li abbiamo lasciati a casa. A casa, certo. Sì. E allora siamo andati in produzione e quando appena siamo arrivati, ho visto mio marito che si è rigidito, appena visto Alex, l'ha spintonato, gli ha dato due o tre schiaffoni, Alex ha preso un computer, gliel'ha buttato contro, prendi l'altro computer, l'ha buttato contro. Ma chi ha iniziato? Diciamo la verità, chi ha iniziato? Tuo marito gli è partita la brocca, dai, tuo marito pochino, sì, un pochino sì, perché era nervoso. Cioè, e chi ha perso, detto, diciamo, chi ci ha rimesso di più, tuo marito o Alex? Ma per me è un po', cioè, tutte e due. Ma comunque, Alex perché, dice aspetta. Che l'ha scaraventato dalle scale, c'è cioè una mezza cosa. Sì, no, non l'ha scaraventato Alex, no, calma. Alex è scappato giù per le scale, mio marito lo stava rincorrendo, è inciampato, è caduto e mi è svenuto lì. Poverino. Ma veramente? Ha detto, sì, no, un trauma cranico. Una trauma cranico. Sì, trauma. Ma vedete cosa succede in questi ambienti, però? Perché, ragazzi, miei... almeno siamo un po' di movimento. Ma lui c'ha la faccia tutta gonfia. La moglie pure contenta. Sì, gli è dato, per fortuna gli ha dato solo due o tre schiaffoni. Per fortuna. Beh, io ho visto con la faccia bella gonfia il signor Magni. Sì, ma ragazzi. Ma adesso tu continuerai a lavorare col signor Magni o no? Sì, adesso siamo. Insomma, ma vedi, Parenzo, alla fine che succede? Alla fine se menano, se vistano. Gente che vola giù dalle scale, traumi cranici, gente pistata e ancora giri porno con signor Magni. Sì, no, ma adesso vediamo un attimo, anche perché io voglio sapere chi pagherà i danni comunque. Ragazzi, siamo sui 5.000 euro, cioè parliamone un attimo. Ma danni di che cosa? Ma sono i computer e poi dopo hanno il spaccato computer. I due computer. Ragazzi miei, ma vivete in un mondo di pervertiti e si preoccupa del computer. L'allegra famigliola del Mulino Bianco che gioca con le telecamere a fare sesso per strada e si preoccupa di un cazzo di computer. Ma dove vivete, ragazzi miei? Dove adesso vivete? Vedremo un attimo come va a finire. Vedremo un attimo. È una roba incredibile. Cioè, non ha valore. Non so più, no, ma poi sono matto io, figuriamoci. Poi mi attaccano a me perché sono matto io. Figuriamo. Allora, Roberta, io purtroppo ti devo salutare. Però mi sa che un'altra puntata con te me la farei. Ci vuole, va bene, forza. Volentierissimo. Ciao, ragazzi, devo chiudere. È una saga importante. Allora, siamo arrivati alla conclusione. C'è il giallo Alex Magni continua. Ci sentiamo domani. Ciao.